真正的女神不一定来自秀场，好，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月， 请欣赏罗西尼的两幕歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》，创作于1812年，1813年在俄罗斯首演，这是他的成名作，也是一部著名的喜歌剧。巴尔查、拉伊蒙蒂、丹姆等演唱，阿巴多指挥维也纳国家歌剧合唱团、维也纳爱乐演出。 Thank you.

cose. Una fetta in tempo scose, una fetta in tempo scose, ne potrebbe carina. Ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una benedetta sposa, una benedetta sposa. Le potute camminare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sala, trovi tutto in questa sala. È una donna singolar, è una donna, è una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola. È una donna singolar. Per esempio, la vorrei. Schietta, e poi... È tutta lei. Per esempio, io vorrei due negli occhi. Sono due stelle. Chione. Nere. Guance. Belle. Chione. Nere. Volto. Bello. E d'ogni parte io cominciamo un po'. Che da dire che la fare? Caro amico, non ci scappo un po'. Se la vede la cascata. Non ci fatemi con voi. Caro amico, non ci scappo. Che da dire che la fare? Thank you. Siamo giunti a mal partito. Perché? Non hai sentito quella brutta parola? E qual? Serraglio. Ebbe. Dunque bersaglio tu sarai, Don Pei, Don Mustafa. Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare. La prendi così? Che ci ho da fare? Oh, povero Taddeo. Ma di me non ti fidi. Preso mai forse, anima mia, per un pappeo di quel tuo cicisbeo, di quel lindoro. Io non ho visto mai il masso tutto. La mai prima di te, non nego, a molti mesi che d'Italia è partito, e d'ora... E d'ora se ne zia la signora a cercare in Gallizia. E tu? Perché io, col nome di compagno, glielo dovevo condurre. E adesso? E adesso, con un nome secondo, fuori un serraglio a far, lo pensi il mondo. Tutto quel che può venirsi. è un precipizio. Meglio un turco che un piccone. Meglio il fiasco che il lampione. Meglio un turco. Meglio il fiasco che un piccone. Che il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Vanni al diavolo in malora. Più ne voglio, più ne voglio di garrin. Buonanotte, sì, signora, ho finito l'impazzir. Andiamo, buonanotte, farò il malore, ora più ne voglio, ho finito l'impazzir. No, no, buonanotte, sì, signora, andiamo, più ne voglio di garrin. Non ci pensare ora, so Ascolta l'italiano, un vascel veneziano riscattato pur ora tiene momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar? Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non chiedo. Che quel vira conduci e te il concedo. Che dici? Va intanto del vascello il capitano a ricercare. E dia nome mio che gli ripara un parda senza di voi. Io mi tolga ormai a si odiato soggiorno, tutto peggio accettar, vado e ritorno. Tu peggio lasciarmi. Nell'Italia tu sarai bene. Viva, viva il bene. E che direte a lì? Liete novelle, una delle più belle e spiritose italiane. Che bene. Caduta d'estè con altri schiavi è in nostra mano. Or mi tengo da più del gran sultano. E le vira? Adesso con l'italiano tu puoi apprezzare che a partire. Zulma, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio godere. E agli uomini tutti oggi insegnar io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio. Solito d'ore nel bello, agitare a bambare mi sento, un ignoto sale contento, che mi trascorda e brillare mi fa, un ignoto sale contento mi trascorda e brillare mi fa. Soave contento mi trasporta e brillare, brillare. Voi partite, ne più m'annoiate. Poppa seco, che spartie, obbedite. Ma seco, obbedite. Voi la bella al mio seno guidate, ma pensate alla la verità. Voi la bella al mio seno guidate, ma pensate alla la verità. Sì, la verità, sì, la verità. L'acceso dormivo, questo caro trionfo lo metto, quanto dolce a quest'anima sarà, al mio fuoco trasporto al desio, non resiste l'acceso dormivo, questo caro trionfo lo metto, quanto dolce a quest'anima sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, ora seco, non passiate, non vedite, non vedite. Al mio fuoco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello quanto dolce a quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma.

che pezzo, oh che pezzo la solitudine, ma conviene di dissimulare, ma conviene. Thank you.

che tu andassi in fondo al mare. Viva! Grazie! Viva! Quanti onori! Alla fine del dove con il mare non parte del mare. Dunque a momenti il signor Mustafa mi favorisce a prendere il caffè. Quanto è grazioso il signor Mustafa. Ehi, schiavo, chiedi là. Che vuol signora? Asinaccio, due volte ti fai chiamar. Caffè? Per quanti? Per me, per te. Se ho ben inteso con voi da sola sola, vuoi prenderlo il bene? Da sola sola? E sua madre fate le ambasciate? Signora! Andate, andate, arrossisco per voi. Ma che cosa da fare? Io vi insegnerò, va in bocca al lupo, chi pecora si fa, sono le mogli fra noi, quelle che formano i mariti. Or su, fate mio moco, in questa stanza ritiratevi. E poi vedrete come a Mustafa far del zar la testa. Che spirito costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti e sarà qui. Finiamo di avviarci, che li venga, oh, se ne viene, or tutta l'arte a me adoprar conviene. Aspetta, tu non sai. sono ancora più guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sai, no, non sai, no, non sai, ci sono ancora più guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sai, no, non sai, no, non sai, ci sono ancora, chi sono ancora, chi sono ancora, chi sono ancora. Ah, porta, bella, mi chiama una donna come lei, come lei, non ti ancora, non ti ancora, non ti senza di lei, andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Presento di mia man, ser Taddeo, Caimacan, ti presento, ser Taddeo, Caimacan, faccio a prendi quanta stima, di te pace musa fa, faccio a prendi quanta stima. Dite faccia musa fa. Ai matare, a costa, il tuo muso fatto apposta, cai macan, a metà costa, il tuo muso è fatto apposta. Osservare quel vestito, me sua pelle e la dice a chi non sa a piacervi alle sue pelle. Ci siamo. Oh. Chi? Creta, creta. Chi? E chi? Quel sordo. Maledetto quel balordo. Non intende ancor vista. Questa rudine che scoppia. Non mi può voglia di qua. Maledetto quel balordo. Non intende ancor vista. Due sciocche. E c'è la carica e si farà che sta Thank you. questa. Ci ho gusto, tanta smania ave ad un'italiana. Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese, ma va ben che gli impari a proprie spese. Disgustarsi col bel sesso, in Italia del convento, pappagatti. Siamo là, siamo là, che ne parli? Le italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Le italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Thank you. m'affido a voi. Ma già fra poco io spero, senza rischio e contesa, di trarre a fin la meditata impresa. Perché ridi d'addio, può darsi ancora ch'io mi rida di te. Tu impallidisci, schiavo gentil, ma se pietà di me sta il mio perio, il mio tenero amor, se parlano al tuo cuore, patria, dovere, italiano, e alle vicende della volubile sorte una donna ti inseni ad esser forte. Oh!

歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播 古典有限频道下面的精彩节目。 是又到雨季了， 阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，一渐渐感到心在变化。 为什么心在变化呀？忘带伞了。 汛期将至，提醒您及时关注天气预报和汛期预警，雨天减少出行，多使用公共交通，绕行积水路段，听从交警指挥，关爱生命，远离洪水，人人参与，安全度汛。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可报名。查询相关政策请登录首都征兵网首页。 好， 真正的型男不一定来自选秀场，那里给不了你一身戎装。 真正的猛男不一定来自健身房，那里给不了你铁汉军魂。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可报名。查询相关政策请登录首都征兵网首页。 好， I have a dream， 我有个梦，能够没有任何风险的发财致富。 可是股市像坐过山车，投资黄金也跌跌涨涨。